音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏多尼采蒂的歌剧《玛利亚·斯图阿达》全剧录音。这部歌剧描述了16世纪英国王室中发生的尔虞我诈的争权夺势和复杂的政治阴谋。这一版录音由萨瑟兰、帕瓦罗蒂、图利热等演唱，伯宁吉指挥意大利波罗尼亚歌剧院合唱团乐团演出。

Io fui, ti ascolto, vidi l'inferno. queste mura e qual ti parve un angelo d'amor bella qual era e magnanima sempre troppo indegna di rio destino fiate che disse sicuro affidarmi al tuo cor. Parla e giuro. Questa in mano, questo voglio la stuare da te di mio. Di sua mano gli ebbi e pria del suo pianto lì pagnò. Liberarla. Regina, o vero amore. Prego te, Oh, Oh! adesso. Oh, perché dovrò come? Non lo dici, e allora io stesso. Se la sola piedi tuoi, io vendetta ne farò. Che fai? Che farmore? Per me sforte la terra. Oh, sai qual capo ella ti chiede? La giure ti rammenta che a dar conforto alla volente vita di una sorella io ti guidai la mano che di squallor la cinse al contento primier Thank you.

affannosa vita andrai come Oh, Ogni tuo abbraccio.